9 in punto, la versione di Oscar. Quest'Italia non è un paese per donne, solo che l'Italia è costituita per metà da donne, ragazze e bambine, il cui sguardo sul mondo e sulla vita, diverso da quello di uomini, ragazzi e bambini, è il fondamento di un paese civile. Questo sguardo è una necessità a cui né donne né uomini possono più rinunciare. Solamente chi è fuori dalla storia può continuare a pensare che le donne corrispondano all'immaginario di vitelloni che non sono capaci né di fare l'amore, né di confrontarsi, né di lavorare a fianco e alla pari con le donne. Uomini, per favore, potete dire che non volete stare in un paese che sembra un brutto film degli anni 50? E donne, usciamo tutte insieme dalle nostre case e mostriamo nude le nostre facce. Vi aspettiamo il 13 per dire l'Italia è un paese per donne. Eccoci qua, avete riconosciuto molto probabilmente la sua voce, Angela Finocchiaro, una bravissima attrice italiana. Questo è l'appello, il video che viene utilizzato, che gira per l'appello alla giornata di mobilitazione delle donne, non solo delle donne, ma innanzitutto rivolta alle donne, che si terrà il 13 febbraio prossimo. L'appello è molto più lungo, circostanziato, ed è firmato da molte intellettuali, giornaliste, artiste, Cristina Comencini, Silvia Vallone, Margherita Bui, Laura Morante, Valeria Parrella, Lunetta Savino, Suore Eugenia Bonetti, c'è la parlamentare di Futura Libertà Giulia Bongiorno, c'è la leader della CGIL Susanna Camusso, molte donne. Il dibattito è nato da alcune settimane dopo questo appello alla mobilitazione, e su molti giornali, su molti media sono stati numerosi gli interventi fino a questo momento. Il criterio è sempre quello di equilibrare, una a favore e uno contro. Io personalmente devo dire che non sono molto persuaso da come è stato scritto questo appello, ma non ne faccio tanto una questione di come è stato scritto, cioè mi sembra rievocare terminologie e modi di quando ero giovane, e ormai non lo sono più. Ma detto tutto questo, la mia opinione è che ci sia una questione, innegabilmente ci sia una questione, che nelle vicende che da mesi sono al centro dell'agenda politica, sto parlando sì di quelle delle indagini aperte dalla Procura di Milano nei confronti del Premier, riproponga e ci obblighi a fare delle riflessioni serie su quale sia la modalità con cui la condizione femminile, il ruolo affidato alle donne, la considerazione che viene dimostrata nei confronti del corpo, della mente, dell'anima femminile, e io credo che ci sia tutto questo. Io non credo che siamo solo in presenza di una strumentalizzazione da parte dei pubblici ministeri, che di sicuro avranno pensato quel che c'era da pensare di un'indagine la cui fattispecie penale a me sembra, devo dire, slippery, direi in inglese, molto scivolosa, ma che inevitabilmente invece colpisce una delle caratteristiche di fondo di Silvio Berlusconi, cioè la sua capacità di piacere, la sua voglia di piacere e la sua disinvolta interpretazione del suo ruolo di uomo di potere, di uomo di potere, con uomo nel senso di genere maschile, nei confronti di queste giovani ragazze che certo aspirano al meglio nella vita, sono a propria volta molto disinvolte, hanno una concezione, lo abbiamo visto da questa cosa barbara che sono le intercettazioni, almeno secondo me, disinvoltamente commentare il doubt des di questo tipo di rapporto. Io non do giudizi e non mi sembra nemmeno tanto rilevante la fattispecie penale. La questione è che abbiamo avuto, grazie a queste intercettazioni, uno spaccato, e questo spaccato, anche se a me non piace per niente, esercita di sicuro un problema nella coscienza del paese, anima i dibattiti, fa pensare a ciò che dietro il velo privato naturalmente si ha pieno diritto, almeno secondo me, a invocare come una lesione per il fatto che non sia più nel privato. Dall'altra parte però propone sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi di ogni marito, figlio, padre, e ne parlo al maschile, non potrei che fare così, l'inevitabile termine di confronto rispetto a un utilizzo, una concezione, una proiezione mentale, voglio dire, delle donne, in cui l'aspetto erotico, sessuale, corporeo, fisico del compiacimento e del vellicamento di questo ruolo diventa, non possiamo dire di no, diventa predominante, diventa dominante e diventa forse, ma questo non spetta a me dirlo, anche ossessivamente, in termine clinico, presente. Ecco, quanto di tutto questo c'è intorno a noi, c'è in ogni dialettica e dinamica di potere, c'è nelle aziende, più volte abbiamo fatto trasmissioni in cui ho dichiarato che tanti anni lavoro, io l'ho trovato in ogni azienda in cui ho lavorato questo aspetto, in ogni azienda, è inevitabilmente connesso al genere maschile. E quindi io non mi trovo nella mia esperienza di vita in condizione di dire toh, questo è un non problema strumentalmente montato. Io sono convinto che ci parli questa vicenda, non so con quali conseguenze politiche e giudiziarie, ma ci parli di un pezzo della vita del nostro paese, un pezzo della vita del nostro paese in cui i maschi sono ancora immersi fino alla radice dei capelli. Questa è la mia opinione ed è il motivo per il quale, a dirvi la verità, io questa mobilitazione del 13, che pure sarà una mobilitazione tutta politica in cui non mi ritroverò eccetera, ma nel motivo di fondo io mi ci ritrovo, perché mi sembra molto utile tentare di riflettere intorno ai temi di questa vicenda. Con chi ne parliamo oggi? Con due ospiti e con tutti voi da casa che invito a telefonare. I due ospiti sono Emma Fattorini, che insegna storia contemporanea alla Sapienza, ieri ha scritto un pezzo secondo me molto bello sul Corriere della Sera. Buongiorno e grazie a Emma Fattorini. Buongiorno Giannina a tutti. E Beatrice Lorenzin, che è vice responsabile per le pari opportunità del PDL e che è una donna impegnata in politica, lo voglio dire perché ne sono testimone, avendo fatto gavetta su gavetta, perché se c'è una cosa che mi dà fastidio di tutto questo è che poi molti siano indotti a credere che nel centrodestra sia una specie di ascensore di belline e di bellone. Non è così, e questa è una delle cose che non mi piace di questa vicenda, per cui io dico viva Beatrice Lorenzin, perché è sotto gli occhi di chiunque abbia degli occhi, e non voglio generalizzare, che c'è tanta gente come lei nella politica, non solo a sinistra, ma a sinistra come a destra, come dovunque, che si fa la sua govetta, crede in quello che fa e ci sacrifica un pezzo fondamentale della sua vita. Poi siate d'accordo o meno con la parte politica in cui milita Beatrice Lorenzin è un altro paio di maniche, ma mi sembra il minimo presentarla così. Grazie a te e buongiorno. Grazie a Beatrice. Lei, buongiorno. Allora, direi che cominciamo, obbligatoriamente cominciamo con chi è convinto che questo appello sia un appello da raccogliere e da, sia pur problematicamente ragionando, ma condividere e rilanciare. Quindi Emma Fattorini. Emma Fattorini, che cosa, perché questo mobilitarsi il 13? Ma io condivido dalla prima parola all'ultima di quello che lei ha detto, e quindi posso solo approfondire alcuni punti. Io ho trovato anch'io un bruttino assai il testo dell'appello, vecchio, con un benvenuto in dubbio di moralismo, e infatti non l'ho voluto votare, non l'ho voluto firmare, dico all'inizio. Poi proprio il ragionamento che ha fatto lei, che ho continuato ad approfondire, a parlare molto con, io ho un figlio adolescente di 16 anni, con i suoi amici, con le mie studentesse, ho capito che invece gli aspetti, diciamo, che non mi convincono, che sono anche molto legati a un nostro atteggiamento un po' elitario, siano un male minore rispetto al bisogno di specificare questa questione che lei diceva, precisando però alcuni punti, cioè appunto il limite di un approccio moralistico, il fatto di non dividerci, quello che lei diceva di Beatrice Lorenzini, che io non conosco, ho piacere ora di conoscerla, mi trovavano d'accordissimo, non solo perché non ci sono le donne per bene e le donne per male, ma perché ci sono tante brave donne, altrettanto brave, altrettanto di qua, altrettanto di là. Non è questo il punto, ecco, questo è il problema che riguarda veramente tutti e tutte. E poi perché credo che, e questa è una critica forte che io faccio a questo appello, il moralismo sia davvero un male grande, un peccato mortale, quello non solo minore, perché impedisce di vedere il problema vero, quello morale vero, così come un atteggiamento però troppo spocchioso di tante mie amiche femministe, dall'altra parte, spocchioso all'opposto, confonde la libertà delle donne con un bisogno di dare non un giudizio, ma una scelta di responsabilità, perché la libertà ci rende liberi in quanto possiamo scegliere, non in quanto possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ecco, qui bisognerebbe mettere un po' di punti sulle i, un po' di fondo. si fa fatica, perché questo è un paese che ha fatto una gran confusione su tutti questi piani, e poi non a caso si slitta e si scivola su questi che sono quelli più evidenti, più primitivi, quelli più legati allo spirito mediterraneo italiano, quelli più regressivi, quelli in cui appunto emergono poi i poli estremi, come sempre nel nostro paese, per cui c'è, con presenza di patteggiamenti da anni 50, si arriva invece a no, la libertà delle donne è la prostituzione, è un lavoro come un altro, e questo non è vero. Possiamo indagare, come dice lei, su queste dinamiche evergreen del rapporto potere-sesso e sulle grandi novità, perché sicuramente una prostituzione più consapevole c'è in atto e va analizzata, va vista, ma anche questa non può confondersi ad esempio con la massa di disgraziate che invadono il mercato della prostituzione dai paesi del mondo. Ecco, insomma, bisognerebbe un pochino fare ordine. In tutto ciò, ecco, però l'idea di dire poniamo il problema, poniamolo con forza, diamo un segnale a questi ragazzi che non è vero che tutto è uguale, ecco, perché loro hanno ormai interiorizzato l'idea che comunque usare il corpo sia assolutamente identico e in modo spregiudicato anche una cosa furba. C'è una delle espressioni che usava ieri nel suo articolo sul Corriere della Sera che mi hanno colpito per la loro vivezza, perché li trovo anch'io all'università, e a un certo punto le dice, sento dei ragazzi dire, ma peccato, questa ragazza così brava con le gambe così lunghe, perché deve studiare greco e impegnarsi così tanto? È questo, capito? E quando io discuto con loro, anche ieri, questi ragazzi che vengono a casa, cioè loro si stupiscono, cioè non è che non hanno neanche delle argomentazioni forti o deboli, proprio per loro è diventata una cosa naturale. Per questo ho firmato, per questo ci vado, capito, alla manifestazione, perché almeno si pongano il problema. E poi sono ragazzi tutti di figli, di famiglie naturalmente, politically correct. Sì, perché poi questo conta anche, perché poi c'è una distonia molto forte tra spesso gli argomenti che risuonano in famiglia, eccetera, eccetera, e poi concretamente quello che si vede. Oggi mi rivolgo... Sì, ma poi però fino a un certo punto, perché poi i padri anche delle politically correct, anche a loro volta, poi scivolano. Ecco, perché è una cosa molto subita. Questa è la mia tesi. Io avrò un'esperienza limitata, nella mia esperienza limitata, nei miei, ahimè, tra un po' diventeranno 50 anni di vita, io trovo che, per questo sostengo, c'è un problema legato al genere maschile ancora vivo, aperto, irrisolto, sì, nell'evoluzione anche, culturale del nostro paese. Esatto. Io infatti per questo dico che tanta gente che conosco la pensi di qua o di là, poi alla fine sia la battutaccia, sia la battutina, sia l'ammiccamento, sia il comportamento concreto, si tratti di dare un posto all'università o in un giornale, eccetera, eccetera, beh, c'è poco da fare, scatta una specie di riflesso condizionato, oppure una convinzione che viene mascherata dietro una superficie di politicamente corretto, ma per me c'è un problema molto forte. Quando però, lo dico rivolgendomi a Beatrice Lorenzin, oggi leggo su Repubblica un articolo di Anna Brava, una storica, un'altra storica diversa da Emma, e leggo le considerazioni, uomini abbiate più coraggio, tocca anche a voi vergognarvi, e la si mette sull'indignazione, io qui non sono d'accordo, e ragiono perché, dico, a me in quanto uomo che credo di essere sempre stato sensibile a questa questione dell'identità di genere maschile e femminile, poi ognuno è figlio anche delle proprie famiglie, nella mia famiglia era un problema irrisolto, grande come un grattacielo, quindi me lo sono posto da quando ero ragazzino, però io non credo che la chiave sia che il mio contributo come giornalista, come sollecitatore di dibattito, sia quello di vergognarmi in quanto uomo, nel senso che io sono convinto che poi la responsabilità, se uno crede, e quindi il problema del peccato, se uno crede, se non ci crede, il problema della dignità comunque della persona umana, sia una questione commisurata alla responsabilità e a ciò che ciascuno fa. Io non trovo necessario affrontare questo tema dicendo io adesso mi devo indignare e vergognarmi in quanto uomo. No, io voglio pormi il problema se e come in una società in cui esistono soggetti che formano le proprie coscienze di uomini e di donne giovani, come ci ricordava Emma, che cosa gli arriva loro, che cosa c'è ancora di irrisolto, secondo me molto, nella organizzazione collettiva della nostra vita italiana su questo tema, che è un tema sul quale l'identità di genere e la commisurazione dei diritti e della dignità, del rispetto dei diritti collegata all'identità di genere, è un problema che noi dobbiamo saperlo, è un problema storicamente molto delicato e, diciamo, non arrivato a soluzioni sedimentate nella coscienza nazionale come altrove. La nostra è una storia particolare e su questo, insomma, il macismo e il gallismo latino sono problemi veri, non è che ce li si inventa. Bisogna capire come e se questa vicenda ci deve invitare a rielaborarli nella nostra testa, per la nostra responsabilità individuale, nelle nostre vite, ma come anche collettiva. Se uno sta a un microfono deve porsi il problema. Chiedo a Beatrice Lorenzin, innanzitutto, che cosa non la convince nell'appello del 13, nella giornata di mobilitazione del 13, che cosa in tutto questo secondo lei, comunque, come donna che affronta, combattendo con l'impegno personale, un'impostazione di una società solo volta al potere maschile, che cosa però in tutta questa vicenda comunque è utile prendere per un dibattito serio dal suo punto di vista, Beatrice? Allora, innanzitutto la ringrazio per darmi la possibilità di affrontare in modo ragionato questa questione, non come purtroppo abbiamo assistito in questi giorni, in cui c'è di fatto, possiamo dire, uno spettacolo quasi osceno, dove le donne vengono tutte messe da altre donne, tra l'altro, su una sorta di banco delle imputate. Cosa non mi convince? Guardi, il primo prodotto di questa manifestazione è già avvenuto, in aula di Montecitorio la scorsa settimana, quindi prima che la manifestazione si sia realizzata, e cioè che per la prima volta su una mozione contro la violenza sulle donne, fatta sia da noi del PDL che dalle donne del PD, le donne del PD hanno votato contro. Hanno votato contro non perché non erano d'accordo nei contenuti, ma perché non potevano votarla per motivi politici. Credo che questo sia un fatto gravissimo. Per la prima volta dopo tanti anni ci siamo divise su questioni concrete che riguardano i diritti delle donne, la sicurezza delle donne, per succubi, possiamo dire, di una ventata politica, che io, che sono una che la fa politica, può anche capire la strumentalizzazione di certi momenti, ma che in questo caso, essendo noi ancora più deboli, dobbiamo dirlo, sul piano proprio della gestione del potere e sul piano decisionale, ha finito per penalizzare chi? Mica signore che fanno scelte consapevoli, più o meno accettabili, diciamo, dalla morale comune o dalla mia personale opinione, ma insomma, che vivano la propria vita. No, hanno finito per penalizzare la costituzione di centri antiviolenza in giro per l'Italia. Quindi questo già è un primo colpo assestato da questa manifestazione. L'altra cosa che non mi piace, si è parlato della strumentalizzazione, dell'uso tutto partitico e politico di questa manifestazione, ma è quello che c'è dietro. Cioè, ci ritroviamo di nuovo, una volta ancora, con una sorta di tribunale di inquisizione in cui paradossalmente quelle che una volta rivendicavano con dignità di essere le streghe danno la caccia a nuove streghe, una lotta di donne contro donne che provoca soltanto e provocherà soltanto una misoginia di ritorno nei confronti di tutte le donne che con grandissima fatica, perché le cose che lei diceva prima sui luoghi di lavoro, nell'università, il capo che ti guarda e ammicca la scollatura del vestito, purtroppo è un fatto che tutte le donne lo sanno, devono affrontare da quando sono ragazzine a quando sono adulte ogni giorno nella propria quotidianità, con dignità, con forza, con reazioni, anche a volte con senso dell'umorismo, perché altrimenti non se ne potrebbe uscire vive. Ecco, questo che si sta rigenerando è, io lo chiamo, una misoginia di ritorno, e purtroppo credo che molte donne che oggi pensano di essere, di portare avanti un vessillo della dignità, e non si capisce bene quale dignità e di che cosa stiamo parlando, finirà invece per penalizzare le altre donne. E non sono d'accordo con lei sugli uomini, Giannino, perché qui abbiamo poi un altro ulteriore passaggio. Nel senso che queste donne che hanno messo in piedi questa manifestazione, che poi alla fine non è una manifestazione per le donne ma una manifestazione contro Silvio Berlusconi, e quindi già hanno fatto una divisione netta del paese, 50 contro 50, ci sono tutti gli altri, cioè gli uomini capi dei loro partiti, che stanno lì a guardare compiaciuti dalla finestra che queste signore facciano il lavoro sporco che loro non sanno fare, cioè creare una contrapposizione politica. Ma questi stessi uomini che sono lì, che giudicano, no? E che si preoccupano della dignità delle donne, come la difendono quotidianamente la dignità delle donne nelle loro case, nelle loro abitazioni, nell'attività politica, nei posti di lavoro. Cioè qui manca non la colpevolizzazione dell'uomo, perché per carità, ma manca un momento anche di autoanalisi di un processo che non è stato portato a compimento, che è quello del post-femminismo. Il femminismo nato come un momento di rivoluzione sessuale, di libertà, di dare la possibilità alla donna di essere libera di scegliere sulla propria affettività, dopo gli anni 70 a un certo punto si è arenato. No, non hanno voluto vedere quello che accadeva, e cioè che questa libertà sessuale è diventata uno strumento di potere sessuale, non da tutte le parti, non ovunque, non generalizzato, ma è un tema su cui noi ci dobbiamo interrogare, e che alla fine, dopo 30 anni di un'immagine della donna aggressiva, forte, diciamo anche orgogliosamente rivendicatrice, si sono resi conto che c'era una strumentalizzazione del corpo della donna, tutto all'improvviso. E oggi cercano e hanno trovato un capro espiatorio, perché le donne non sono state capaci di riflettere su un percorso che è stato interrotto e che non ha avuto diciamo un'elaborazione culturale negli ultimi 15-20 anni. Ora la colpa di tutto questo è Silvio Berlusconi. Mi sembra una scorciatoia troppo facile, sia sul piano culturale che sul piano intellettuale. Le donne oggi sono più forti, più consapevoli, dovrebbero avere una maggiore anche coraggio intellettuale nell'affrontare in modo diretto, anche in modo polemico, ma sicuramente più autorevole e autonomo, quello che è stato una criticità di un percorso iniziato 40 anni fa e che oggi forse ha bisogno di una giustatina, però con linguaggio diverso. Perché come pensiamo di parlare alle nuove generazioni? Voi mi rappresentavate uno spaccato. Io vedo su Facebook le giovani studentesse universitarie, ma non parliamo di ragazze che vengono da luoghi della disperazione, tutt'altro, della buona borghesia, della buona borghesia romana, che mandano messaggi, richieste di amicizia ai loro professori universitari con foto dove sono in costume da bagno e in perizoma. Cioè, cose incredibili. Questo è un fatto. Questo è un fatto che colpisce anche me da anni. Cioè, io sono convinto che non c'è solo una questione di identità maschile irrisolto. C'è una questione, insomma, in altre parole, la disinvoltura estrema nell'approccio corporeo è non solo un tratto inevitabile della laicizzazione della modernità, è un tratto della semplificazione del cortocircuito che c'è tra ragazzi e uomini maturi, donne e uomini, ed è diventato un elemento, sia pur, e questo che non mi piace per esempio dell'appello, devo dirvi la verità, molti ascoltatori stanno protestando durissimamente dicendo il solito Giannino, servo di Berlusconi, perché hai preso a favore una che dice che non gli piace l'appello e poi c'hai una serva di Berlusconi come te, servo di Berlusconi, siete tutti servi di Berlusconi, perché stai artatamente portando la puntata a dire che non bisogna fare male. Al contrario, sintetizzo, vi ho detto che per me la giornata di mobilitazione è una grande occasione in cui riflettere. Sono convinto che ci sia un grande problema tra uomo e donna. Ritengo che sia largamente ipocrita presentare tutto questo, che ci presenta aspetti molto discutibili che non mi piacciono per niente della vita personale di Silvio Berlusconi, come se fossero fatti specie penali, perché chiunque conosca il codice gli scappa un po' da ridere. Questa è la mia opinione. Il che non significa affatto che non capisca e non condivida che un paese che diventa come tratto dominante per mesi della sua agenda pubblica e viene prospettato sui giornali internazionali, nei vertici internazionali, come un paese con la testa puttaniera, perché di questo si parla, beh, non è che io dica, mi sentite dire viva viva e lo difendo. Sto dicendo però che ho scelto apposta come conduttore una che, come Emma Fattorini, scrive e testimonia che sono punti fondamentali su cui mobilitarci le donne, ma l'ho scelto apposta perché io scelgo di farla io come voglio la trasmissione finché me la fanno fare, critica, perché in questo appello non è che ci trovo tutta questa, ci trovo una scelta di campo con un frasario che dice le donne degne di questo nome combattono e scendono in campo contro i puttanieri di cui ci dobbiamo liberare, cioè Silvio Berlusconi. E io credo che il problema è che purtroppo puttanieri e ossessionati dal sesso siano un tratto abbastanza diffuso, insieme a questo di cui ci parlava Beatrice, cioè il fatto che il cortocircuito della corporizzazione del rapporto tra uomini e donne sia una faccenda che io vedo tanti miei amici e coetanei maschi non sanno trattare con le figlie. Le figlie sono delle, spesso può capitare di capire che sono delle bombe erotiche mal controllate, e molti miei coetanei alle figlie non sanno come usarlo l'argomento, perché poi gli dispiace, si dispiace, ma fino a un certo punto, e così via. Quindi questa è la maniera, spero non vi infastidisca troppo, in cui di fronte a questo appello, a questa mobilitazione, che io sono convinto riuscirà, il 13 ci saranno manifestazioni in tutte le capoluoghi di provincia e vedrete quante donne parteciperanno, non solo per anti-berlusconismo, molte anche perché convinte che questa vicenda sia una grande occasione per fare i conti con un problema grande nel nostro paese. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, siamo collegati con Emma Fattorini e Beatrice Lorenzin. L'argomento è l'appello per la mobilitazione delle donne, 13 contro Berlusconi, quello che si vede delle notti di Arcore e delle ragazze dell'Oggettina. Sentiamo alcuni ascoltatori e ascoltatrici. Innanzitutto Patrizia, che ci chiama da Milano. Prego Patrizia, come la pensa? Premesso che io penso che le cortigiane sono sempre esistite. Non mi stupisce quello che fa Berlusconi, ma men che meno mi interessa quello che fa. Quello che mi interessa invece è quello che una volta si chiamava la questione femminile. Io penso che andare ad una manifestazione non serve a niente, perché chi è già sensibile a questo problema non ha bisogno di dimostrare niente, e chi non è sensibile non gliene importa niente di quello che viene fatto. Secondo me è fondamentale partire dall'inizio, cioè dall'educazione dei figli. Io sono cresciuta in una famiglia dove mio padre voleva tre figli maschi, ne sono nate tre figlie femmine, e io dicevo sempre, ci ha sempre trattato come tre maschi, in realtà ci ha sempre trattato come tre persone, perché quello che è fondamentale è quello che i genitori trasmettono. Io ho cresciuto due figlie che hanno poco più di 20 anni, che ragionano con la loro testa, che non si fanno influenzare da quello che gli altri dicono o quello che gli altri pensano e fanno, però è stato un lavoro che è iniziato quando loro erano molto piccole. Io ho perso un marito per questa cosa, nel senso che mio marito se n'è andato perché non ha mai sopportato che io non fossi quasi mai d'accordo con lui, perché ragionavo in maniera autonoma, e secondo me veramente quello che gli adulti adesso fanno, bene o male è perso, nel senso che una persona adulta quel che è difficilmente cambierà. Però c'è tanto da fare sulle nuove generazioni, e cioè non è Berlusconi, è quello che noi insegniamo ai nostri figli e soprattutto quello che noi trasmettiamo con il nostro esempio. Io sono 7 anni che sto mandando avanti un'attività da sola, sto crescendo due figlie da sole, sono 7 anni che non faccio un giorno di ferie, io non ho bisogno di dire niente, perché la mia vita, purtroppo magari in maniera presuntuosa, è una dimostrazione che non esiste una questione di genere, ma una questione di testa e soprattutto una questione di educazione. Sì, il limite che trovo, grazie Patrizia, il limite che trovo almeno nella descrizione, io purtroppo non ho figli di molti miei coetanei che oramai sono adolescenti e oramai grandi, è quello che poi la possibilità di incidere davvero, di dare un imprint molto forte oggi è ovviamente molto più limitata di un tempo per un padre, una madre, per un modello di famiglia che funziona, rispetto all'interazione di tutti i fattori esterni, al bombardamento inevitabile di una pluralità di messaggi dai media, la scuola che funziona in maniera molto diversa dal passato, i social network, tutto questo ovviamente è una sfida per la capacità poi di dare, con la vita che parla da sola come quella di Patrizia, così diceva, l'esempio che viene trasmesso in termini di valori. E oggi i valori sono qualcosa di sottoposto a influenze molto più ampie, ibride, plurime di quanto non capitasse già solo quando ero giovane io. Come la pensa Pietro, che ci chiama da Firenze? Prego Pietro. Da Trieste. Ah, mi hanno informato male, prego, dica. Buongiorno Giannino, un piacere parlare con lei, è la seconda volta che trovo la linea. No, volevo portare una semplicissima esperienza diretta e spostare il discorso rispetto all'ambito politico, che non trovo particolarmente significativo, però l'esperienza era questa. Io nell'85 da stagista ho lavorato per un anno in una banca negli Stati Uniti e ero già abituato a muovermi in ambienti aziendali. La cosa che veramente ho notato là, ed è stata estremamente piacevole, è stata quella di vedere che non c'era una differenza di sesso, nel senso che sia uomini che donne occupavano delle posizioni anche apicali e portavano avanti le loro attività esattamente, indifferentemente, ecco, dal fatto che fossero uomini o donne, e questo è stato molto molto istruttivo sotto il profilo professionale. Tornando qua in Italia, mi sono poi laureato e curiosamente il professore di statistica si divertiva a tenere nota dell'andamento del profitto di ciascun studente in tutti gli esami universitari, ed saltava fuori che impietosamente le donne erano sistematicamente più brave dei ragazzi. Questo proprio era un dato statistico oggettivo. L'ultima considerazione è questa: io lavoro in un'azienda di cui non dirò il nome, però effettivamente il fondatore è morto prematuramente e la moglie ha dovuto, con dei figli piccoli, portare avanti l'azienda completamente da sola. Una donna straordinaria che effettivamente è riuscita a portarla avanti e poi a cederla ai suoi figli. Se questa donna non fosse stata quello che era e non avesse avuto lei la forza di imporsi e di portare avanti questa attività, avremmo perso una grandissima opportunità come città, come azienda, come paese. Quindi, se non vogliamo perdere delle opportunità e vogliamo confrontarci con i paesi più evoluti di noi da questo punto di vista, dobbiamo ragionare proprio in termini di allocazione di risorse. Lo so, Pietro, però il problema è che a trovare vicende come questa, siamo tutti bravi e per fortuna sono avvenute nella storia italiana. Penso, per esempio, qui c'è il presidente, perdonate, la società editrice Solo 24 Ore, Giancarlo Ceruti, è un gruppo che produce macchine a stampa, è uno dei più grandi gruppi mondiali, è una storia piemontese che conosco bene. Anche nel suo caso, per la scomparsa del marito, è stata la mamma di Giancarlo Ceruti a tenere in piedi, nessuno l'avrebbe mai immaginato, l'azienda, un'azienda multinazionale presente sui mercati di tutto il mondo in maniera straordinaria. Però per tutte queste storie di successo che conosciamo, ci sono per fortuna, in realtà la mia esperienza dal basso, continuo a pensare, farò testo o non farò testo? Io purtroppo temo di sì, prova che c'è una discriminazione, e c'è una discriminazione legata anche, voglio dirlo fuori dai denti, all'aspetto fisico e alla disponibilità al coinvolgimento improprio. Io l'ho sempre verificato, sarà verificato io, evidentemente, non so che dirvi. Le informazioni sulla circolazione stradale, eccoci tornati in studio. Ancora una telefonata a Giovanni che ci chiama da Monza. Prego, Giovanni. Buongiorno dottor Giannino, a lei e a tutti i suoi ospiti, mi sente? Sì, dica. Buongiorno, ecco, io innanzitutto le volevo fare i miei complimenti per la trasmissione che vabbè, seguo vabbè, però al dunque. Poi volevo esprimere il mio disaccordo, perché la mia esperienza dal basso è che questa discriminazione nei confronti delle donne non c'è assolutamente. Attualmente lavoro in un gruppo internazionale dove la presenza femminile è almeno del 60%, anche in posizioni ma non è che per caso la natura internazionale del gruppo ha la sua influenza nel determinare? No, per dire, non è una piccola realtà, quindi no, ma io credo che questo che lei ci sta dicendo spiega perché nelle realtà le piccole imprese, cioè, che sono il 99% d'Italia, che ho conosciuto io anche piccoli giornali, perché poi in quelli grandi o mi pigliano o mi cacciano o non mi pigliano, ma detto questo io ho verificato, insomma, credo che la taglia internazionale obblighi a standard diversi, questo ci dicono le statistiche comparate. Per questo dico che lei ha ragione e ci ha invitato a riflettere su un altro punto. Io farei un'ultima domanda sia a Emma Fattorini che a Beatrice Lorenzini. C'è ancora Anna da Cosenza, che me l'ho dimenticato, però, quindi mi chiedo scusa. Anna da Cosenza, come la pensa lei? È caduta la linea, Anna da Cosenza, e sono due volte colpevole: primo perché l'ho dimenticata, e secondo perché poi ho fatto cadere pure la linea. Bene, la domanda che volevo rivolgere in conclusione, uguale per entrambe, a Emma Fattorini e a Beatrice Lorenzini, è questa: le vostre storie individuali, personali, sono diverse, io conosco entrambe, però sono storie fortemente caratterizzate da un'attenzione critica, un coinvolgimento, anche una grande passione, pezzi lunghi della propria vita dedicati alla riflessione e poi anche all'impegno concreto nella militanza, sui temi che riguardano la politica, da donne, le donne in politica, i temi della donna risolti dalla politica. Vi chiedo, innanzitutto a Emma Fattorini, il bilancio aperto di quello che il femminismo, la sinistra, la rivoluzione e l'emancipazione della donna, anche i diritti come sono cambiati nel codice dall'organizzazione della famiglia al corpo della donna, alla maternità, al diritto alla vita, all'aborto, queste cose qua. Io ho come l'impressione che a un certo punto siano immersi carsicamente e scomparsi un po' dalla presenza nel nostro paese, ma io forse non sono abbastanza attento per capirlo, e che siano rimasti poi come degli stereotipi, e sono quegli stereotipi che quando vedo riemergere in un certo frasario non mi convincono. Dall'altra parte dico sì, però la storia dell'emancipazione di questi diritti è stata fatta in quel modo, e allora io non so poi che risposta dare. A Emma Fattorini chiedo, quel tipo di linguaggio, quel tipo di rivoluzione, quel tipo di atteggiamento, un atteggiamento di forte rottura della rivoluzione femminista, la sinistra eccetera, e ancora oggi la chiave, un'eredità in qualche maniera su cui vigilare, su cui lavorare per trasformazione, oppure poi alla fine era un po' scomparso perché era troppo datato ed era un pochino, per così dire, preistorico ormai, non dava più risultati, era più una roba che serviva a dividere piuttosto che a unire e andare avanti. Ecco, proprio questo è il punto. Io prendo lo slogan che diceva prima, di cui parlava prima la Lorenzini, o ieri la Santanchè, le streghe, dalle streghe contro le altre streghe, oppure l'utero è mio, me lo gestisco io. Io rabbrividisco, queste sono cose veramente giurassiche, preistoriche, si salta completamente tutta l'elaborazione che c'è, queste sono cose degli anni 70, che effettivamente non sono state maturate, si sono semplificate, non hanno prodotto, ed è da lì che si deve ripartire. Questo ha ragione Lorenzini, cioè noi parliamo di quella cultura e dimentichiamo, facciamo altri due per parlare di slogan perché il tempo è poco, per esempio mettere il corpo femminile nella politica. Io se penso a cosa significava questo nella cultura del pensiero delle donne, della sinistra, del femminismo, voleva dire creare una, cioè valorizzare la specificità femminile nel fare politica, ma voleva dire nell'essere sociale delle donne insieme agli uomini. E poi quando vedo questi corpi strizzati, questi capelli lunghi tutti biondi, queste bellissime donne rifatte, tutte uguali, con i tacchi a spillo che invadono la politica, al di là della mercificazione del corpo, io dico ecco, quello era il corpo. Certo, è una, diciamo, una caricatura, ma è proprio una realizzazione paradossale, una eterogenesi dei fini di quello che dicevamo noi, che diceva il femminismo post anni 70. Cioè che ci voleva la donna che in quanto tale entrasse lì, e ci è entrata in quelle forme. Ma da lì dobbiamo ripartire. Perché è successo quello? Cosa abbiamo combinato? Seconda cosa, privato e politico. Questa è un'altra cosa fortissima, cioè contro una scissione che è proprio tocca tutti i punti che abbiamo visto nella trasmissione. E che cosa è successo? E abbiamo Arcore. Io non demonizzo Berlusconi, però sono anche, voglio essere chiara con gli ascoltatori che dicono ah dai, io tentenno, io non tentenno niente, io sono perché Berlusconi vada via, ma non voglio che vada via per queste ragioni, voglio che vada via per ragioni politiche, e chiudo la parentesi su Berlusconi. Mi fa riflettere però che il privato e politico è diventata questa roba qua. Dobbiamo ripartire da lì, dai punti migliori, e su questo della riflessione femminile, e su questo io chiedo alle donne della destra, alle donne come la Lorenzini, di riflettere insieme, perché lei ha ragione, ma le critiche loro non possono partire dalle streghe, dall'utero, capito? Cioè c'è stato molto, molto dopo, c'è stata una rottura, un'interruzione, una rottura grande, per responsabilità di tutti, di tanti, la politica non c'è stata, una modernizzazione bloccata in Italia che è scivolata nelle forme, cioè sono 3.000, adesso non abbiamo tempo, però è questo il punto, quel tipo di riflessione lì, cioè il rapporto tra privato e politico. Io penso, avverto nell'aria per questo tipo di mobilitazione, che il rischio non sia quello di unire, ma di dividere, cioè di spaccare anche le donne in due tribù, e quindi sono le tribù di qua e la tribù di là, perché io trovo che sia il difetto fondamentale della vita pubblica italiana, per cui non si riesce più neanche a condurre una trasmissione, perché c'hai gli ascoltatori che ti dicono sempre con gli sms, niente, ma tu non sei mai di qua, di là, ecco, io questa roba curva nord e curva sud, però io questo è un tema che consegno a voi che fate poi attività pubblica, di riflessione nelle vostre diverse professioni. Chiedo a Beatrice Lorenzin, prima l'intervento suo è esordito proprio con ricordandoci che in Parlamento, appunto, sui temi dell'identità di genere adesso vi dividete molto più di prima per quello che è successo, e quindi dice sì, noi possiamo vedere gli appelli alla mobilitazione, però poi in concreto oramai con le donne del centrodestra, le donne del centrosinistra non votano più per definizione sui temi che ci riguardano. Allora, al di là della netta divergenza su Berlusconi vattene o meno, ma ci si trova un modo poi tra donne intelligenti che hanno ascendenze, appartenenze, convinzioni politiche diverse, ma per continuare a lavorare insieme su queste prospettive, secondo lei, in Parlamento, ma dovunque, insomma nei centri in cui ci si confronta, non solo nei punti in cui si vota, perché arrivare a votare è l'attività conclusiva, cioè quello che conta è quello prima, il lavoro che si fa culturale. Ci sono dei canali aperti comunque tra voi che ci facciano sperare che poi qualcosa di buono avverrà, sì, al di là, sì, del... Ecco. Ci sono, anche perché se non ci fossero, le prime a sbagliare, ad aver fallito, saremmo proprio noi. Quindi credo che chi ha buon senso, perché qua veramente serve riportare il buon senso al centro e non tanto l'intelligenza, e dobbiamo cercare di cucire, di tenere unito un lavoro che è stato fatto in questi anni. E prima parlavate delle dinamiche delle donne nelle multinazionali, che ahimè, siccome seguono leggi, o per fortuna, americane e un altro tipo di comportamento, lì i problemi di discriminazione sono molto pochi, ma ce ne sono invece tantissimi altri nella società. Una cosa voglio dirla a proposito della politica, e lo do come spunto per una riflessione. Dopo Tangentopoli, e cioè quindi dopo che sono stati spazzati via i partiti tradizionali, non c'è più traccia di una forza organizzata delle donne, dove anche riflettere di questi temi all'interno dei partiti politici tutti, e non è che è stata raccolta come avrebbe dovuto essere da una, diciamo, presa di coscienza comune, per cui alcuni temi sono diritti che appartengono a tutti, uomini e donne, e non soltanto ghettizzati alle donne, ma sono rimasti sospesi, spesso vengono utilizzati quando fa comodo come luoghi comuni, ma una riflessione profonda su questo tema non c'è, e il fatto che non ci sia ha lasciato aperto un varco tra uomini e donne nell'educazione, come diceva la prima anche ascoltatrice, dove c'è proprio una specie di spazio vuoto che ha comportato in un falso fraintendimento tra libertà, diritti, tra ciò delle persone, non soltanto delle donne, quindi di tutti, ha portato altri problemi nella nostra società, che è un gap educativo, che è il problema della, diciamo, della discapacità delle nuove generazioni di distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e anche un problema a ultimo sulla natalità nel nostro paese. Sì. Quindi sono tanti gli elementi. Il nostro è un paese dove in nome della libertà, anche in nome della libertà personale, non nascono più bambini. Cioè, bisogna un attimo riflettere su tanti percorsi culturali. Sì, io sono molto d'accordo con questo aspetto, che secondo me non abbiamo toccato abbastanza oggi, per quello che si vede nell'evoluzione delle famiglie, della fecondità, del tasso di demografia italiano, è anche un aspetto che non deriva solo dal fatto la scarsità delle risorse ai giovani, e il fatto che il nostro fisco è ferocemente ladro di presente e futuro nei confronti della famiglia e dei giovani che vogliono fare figli, molto più di altri paesi dell'Europa continentale, le tante denunce che abbiamo sempre ripetuto da questo, ma c'entra anche un andamento dei rapporti tra uomo e donna, questo non c'è dubbio. Io ringrazio comunque Emma Fattorino e Beatrice Lorenzini, perché a modo mio, probabilmente sbagliando, vedo la reazione di molti ascoltatori che continua ad essere molto critica, abbiamo tentato di riflettere su questo appello alla mobilitazione delle donne il 13 in maniera non urlata, non gridata, e mettendo da parte quello che ciascuno pensa diversamente su Berlusconi a casa o non Berlusconi a casa. Io vi dico che per me questa maniera di vedere le donne al centro della politica e di un leader è un problema molto serio, per me molto grave, quindi io non so se pensate che non basti, che cosa volete che vi dica, devo andare col popolo viola? No, io col popolo viola non ci vado, e penso che di avere diritto alla mia capacità organizzativa di riflessione con donne come queste, che voglio ringraziare ancora una volta, Emma Fattorini, Beatrice Lorenzini, e grazie a voi tutti. Pensateci nella vostra vita quotidiana, invece di solo limitarvi a dire via il puttaniere, pensateci se come padre, come fratelli, come mariti, davvero fino in fondo siete mondi, per così dire. Io tento di farlo nella mia vita, penso di aver molto sbagliato. Grazie anche in regia a Carmelo Lauricella e a Franco Piantarida, grazie al quale siamo andati in onda anche stamattina, e Alessandro Marco Tulli, che è l'ideatore insieme a me della trasmissione. Linea Generale Radio, appuntamento a domani.